per quel che riguarda i voli per Bari, Catania, poi Roma-Madrid, poi Roma-Malpensa. Fiumicino è messa male, insomma il più importante scalo italiano è uno dei peggiori, davvero quasi il peggiore per quel che riguarda il fatto di ritardi in Europa, consoliamoci così. Allora dovete votare sul sito radio24.it nell'home page bianco o nero se vi sono mancati o no tutti questi talk show per la par condicio anno zero, Porta a Porta di Bruno Vespa. Siamo qui alle 8 e 16 minuti e allora oggi abbiamo fatto riposare un po' Deborah Rosciani perché... Well, the time has come. Catherine Bigelow! Perché la notte degli Oscar! La voce era di Barbara Streisand, credo, Marta Cagnola. Sì. Confermo la voce di Barbara Streisand. Abbiamo fatto riposare Deborah Rosciani. Abbiamo lasciato sveglia tutta notte la cagnola, che però guardato per voi la notte degli Oscar. E allora il tradizionale appuntamento. Ora ci racconterà tutto Marta. Come sono andati? Trionfo delle donne l'8 marzo. Trionfo delle donne. Non avere paura. Ti lascio comunque rimanere in studio accanto a me. Carità, non ti caccio, anche se è stato veramente un trionfo per Catherine Bigelow. Qui ci sono tanti aspetti interessanti, perché un film impegnato, un film relativamente a basso budget, un film diretto da una donna, ha sfidato Davide contro Golia, un colosso, il film con gli incassi più alti di tutti, con un budget enorme alle spalle, un film con grandi effetti speciali, Avatar, ma soprattutto un'ex moglie che sfidava un ex marito, e anche questo è piuttosto interessante. Io sentirei chi ha ringraziato Catherine Bigelow proprio ricevendo la statuetta degli Oscar. And I just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis in Iraq and Afghanistan and around the world, and may they come home safe. Thank you. Ecco, Alessandro, abbiamo sentito, ha ringraziato i soldati, tutte le persone in divisa. Tra l'altro lei poi ha sottolineato che si riferiva a tutti coloro che portano una divisa, anche ai vigili del fuoco che erano presenti in sala, e ovviamente su questo c'è stato un grosso applauso, perché gli statunitensi sono sempre molto sensibili su questo tema dei vigili del fuoco, ai quali sono molto affezionati. Io ascolterei un altro ringraziamento, poi andrei anche in diretta con Los Angeles, perché noi abbiamo sempre questo vizio, noi italiani, di sentire se qualche italiano ha vinto. Infatti subito mi hai bruciato lo diciamo perché siamo un po' così. Siamo così, a noi piace dire hanno vinto due italiani, e questa volta è vero, perché Michael Giacchino ha vinto per la colonna sonora di Up, il film di animazione favoloso. Lui, americano, nato negli Stati Uniti, ma l'anno scorso ha avuto la cittadinanza, anche la cittadinanza italiana, e si è detto particolarmente orgoglioso, anzi ha detto delle frasi molto belle, ha detto che la sua creatività è proprio data dal fatto che ha degli antenati italiani. Il secondo vincitore è uno delle tre statuette, una delle tre poche statuette che si è portata a casa Avatar, è la miglior fotografia data a Mauro Fiore. Sentiamo come ha ringraziato. Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia! Un grande abbraccio. Thank you. Allora, questo è il ringraziamento di Mauro Fiore, che aveva ricordato di essere arrivato negli Stati Uniti da bambino con i genitori e quattro valigie, così come di davvero cartone, è stato cartone, no. Davvero è stato così, i genitori sono tornati in Calabria, quindi la nostra parte d'Italia l'abbiamo avuta, ma abbiamo avuto anche una grandissima parte d'Italia. Io mi vorrei dare anche un pochino al gossip, visto che in prima fila c'era una signora con un bellissimo vestito seduta accanto a George Clooney, e quindi vorrei subito sapere com'è andato il red carpet. Ci colleghiamo con Los Angeles, con chi, beato lui, ha seguito davvero il red carpet, Luciano Palermi, il nostro collega che si trova a Los Angeles e che ha seguito il red carpet per E! Entertainment. Luciano! Buongiorno. Buongiorno a te, ormai buonasera, quasi buonanotte. Allora, quasi buonanotte, sì. Noi vogliamo subito sapere com'era Elisabetta Canalis. Dicelo, dai, confessa. Bella tanto. Niente, non c'è scampo, è proprio bella. Decisamente bella. Insomma, non sfigurava, devo dire, insieme alle grandi star hollywoodiane, Voi magari per un make-up fatto ad arte, capelli ben curati, vestito portato, però insomma, devo dire che George Clooney può essere ben fiero di averla al suo fianco. Ecco, vabbè, ci siamo tolti il gossip che in realtà attendevamo tutti con ansia. Luciano, com'è andata questa cerimonia? È stata una cerimonia molto femminile con tante sorprese, perché non ce l'aspettavamo un risultato così netto per The Hurt Locker contro Avatar, perlomeno dall'Italia non ce l'aspettavamo. Da Los Angeles quali erano gli umori? Assolutamente gli stessi, hai riassunto bene la situazione, perché alla fine appunto Catherine Bigelow batte l'ex marito Cameron, James Cameron 6-3. Questo film che tra l'altro mette un po', come riassunto bene, Davide contro Golia, addirittura il film che ha incassato di più nella storia di Hollywood, battuto con da The Hurt Locker, che con i suoi soli, per così dire, 21 milioni di dollari di incasso, ha battuto il discutibile record di film meno remunerato ad essere premiato con un Oscar. Quindi evidentemente l'Academy of Motion Pictures non si è lasciata impressionare dal successo commerciale, dalle cifre o dal consenso del pubblico. Quindi per James Cameron non si è trattato di Titanic 2 in questo caso. E c'è anche da dire che un grosso successo l'ha ottenuto un altro film che era molto atteso, noi in Italia non l'abbiamo ancora visto, che è Precious. Anche qui dei premi importanti, la sceneggiatura non originale, il premio alla miglior attrice non protagonista, un altro film appunto che in Italia non abbiamo ancora visto, che è tratto da una storia molto toccante di una ragazza black american, afroamericana, che ha una storia molto difficile alle spalle. Due attrici straordinarie, Monique ha ottenuto la statuetta come miglior attrice non protagonista, un altro film molto applaudito e per il quale c'erano tante speranze, Luciano. Assolutamente sì, beh, una performance straordinaria, c'è da dire, da parte di Monique, che ha meritato assolutamente la statuetta. Tra l'altro ho avuto modo di vedere subito dopo gli Oscar anche una sua intervista con Barbara Walters, in cui ha dichiarato di aver subito nella propria vita violenze sessuali e di conoscere molto bene questo tipo di problema, perché porta nel personaggio un tale realismo, una tale concretezza, una tale gravitas che davvero secondo me esula da qualunque metodo di recitazione, ha attinto dalla sua vita personale, dai momenti oscuri della sua vita, portando un gioiello di performance davvero, Monique, e anche naturalmente Gabby, la straordinaria nominata, sì, però diciamo che la protagonista aveva contro proprio tutti i colossi delle grandi attrici di Hollywood, era molto difficile per lei arrivare davvero alla statuetta per la bravissima Gabby. Certo, assolutamente, è anche giovane e talentuosissima anche Carey Mulligan, senza ovviamente poi andare a contare gente del calibro di Meryl Streep e Helen Mirren. Quindi diciamo, per Sandra Bullock, che l'ha spuntata finalmente per lei nella categoria miglior attrice, devo dire, insomma, è stata anche molto generosa comunque nel suo discorso di ringraziamento, riconoscendo l'ovvio talento delle colleghe con cui era in lizza per questa categoria, quindi sicuramente è buon per lei, però diciamo c'era davvero da lottare strenuamente sia per quanto riguarda la vecchia guardia rappresentata da Meryl Streep e Helen Mirren che la nuova generazione di Carey Mulligan e questa straordinaria Gabrielle Sidibe. Davvero Precious è un film che consiglio assolutamente, perché è strepitoso, interpretazioni davvero toccanti e convincenti, e lo vedremo prestissimo tra l'altro con un'anteprima al festival africano a Milano, ancora qualche giorno prima di poter vedere Precious, ma possiamo già sentire, abbiamo parlato di Sandra Bullock, qualche secondo del suo ringraziamento, perché appunto ha ringraziato le colleghe, poi la grande commozione della notte degli Oscar. I in particular failed to thank one. So, if I can take this moment to thank Helga B for not letting me write in cards with boys till I was 18, because she was right, I would have done what she said I was going to do. For making me practice every day when I got home, piano, ballet, whatever it is I wanted to be. She said to be an artist, you had to practice every day. And for reminding her daughters that there's no race, no religion, no class system, no color, nothing, no sexual orientation that makes us better than anyone else. We are all deserving of love. Sono ringraziamenti di Sandra Bullock alla mamma Helga Bullock, che era una cantante lirica che la costringeva tra virgolette a provare pianoforte, balletto, qualsiasi cosa le potesse permettere di diventare una stella, così come la piccola Sandra desiderava. Questi ringraziamenti di Sandra Bullock alla madre, ma ci sono anche i ringraziamenti di Jeff Bridges, miglior attore protagonista, ai genitori, anche loro nello Star System, due attori, il padre molto famoso, la madre soprattutto matriarca, ma attrice anche lei. Sentite invece a cosa si è lasciato andare Jeff Bridges. Mom and Dad, yeah, look! Woo! Thank you, Mom and Dad, for turning me on to such a groovy profession. Beh, divertentissimo, Jeff Bridges. Luciano, un Oscar che forse era quello che ci aspettavamo più di tutti, perché anche un po' un risarcimento, perché lui se lo sarebbe meritato già più volte, già qualche tempo fa, insomma, con un Drugo che non ottenne favore a alcuno presso l'Academy. Assolutamente sì, finalmente ce l'ha fatta, lo meritava dopo quattro nomination, questo suo ruolo di cantante country sulla Via del Tramonto in Crazy Heart. La cosa bellissima di Jeff Bridges è questo suo essere estremamente affabile, senza un filo di vanità, senza un tocco di narcisismo. Davvero hai l'impressione di avere a che fare con una persona assolutamente umile, con i piedi per terra, un uomo sposato da 33 anni, che non è soltanto un record per Hollywood, ma penso in generale per una famiglia media. Genitore, padre, estremamente dedicato alle sue tre figlie, appunto ha ringraziato la sua famiglia e i suoi genitori per avergli insegnato i rudimenti della recitazione, per cui per quanto mi riguarda, ma penso che un pochino tutta l'opinione di Hollywood fosse che davvero il Drugo lo meritava appieno, quindi siamo stati tutti molto contenti per il successo finalmente attribuito a Jeff Bridges. E concludiamo con Jeff Bridges. Io vorrei però solo ricordare a chi è andato l'Oscar come miglior film straniero: a sorpresa all'Argentina, non se lo aspettava nessuno, l'Argentina alla fine ha spuntato l'Oscar per il miglior film straniero. Ringrazio Luciano Palermi da Los Angeles, grazie Luciano, speriamo a presto, e ringrazio anche Alessandro Milan che ci ha concesso questo spazio. Ma no, che concesso? Dall'Argentina ora potranno chiedere tutti gli anni, ha vinto l'Argentina anche quest'anno? Sì, chissà se fanno come noi italiani. Siamo orribili. E saranno come noi, no? Latini, mediterranei, quindi certo. Mediterranei no, ma latini sì. Alessandro, eccoci. Agli Oscar per il prossimo anno. Grazie, grazie Marta Cagnola, grazie anche a Luciano Palermi da Los Angeles, ovviamente buonanotte. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. La Regione Lazio ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto interpretativo approvato dal governo sulle liste. Intanto Berlusconi attacca, la sinistra sa solo insultare e criticare, Di Pietro mobilita la piazza per sabato prossimo e Bersani del PD dice il partito democratico terrà alta la denuncia. Intanto i radicali starebbero meditando di ritirarsi dalla competizione elettorale. In Turchia c'è stato un terremoto questa notte, è stata colpita particolarmente la cittadina di Kovancilar, sono già accertati almeno una quarantina di morti nella parte centro-orientale del paese. In Italia da oggi Renato Vallanzasca potrà lavorare in una pelletteria, uscirà dal carcere alle 7.30, rientrerà alle 19. Condannato a 4 ergastoli, Vallanzasca deve scontare 260 anni di reclusione e si trova in carcere ormai da 40 anni. Infine per il calcio finisce 0-0 il posticipo Inter-Genoa e così i nerazzurri rimangono a più 4 sul Milan e più 7 sulla Roma. Il Palermo vince ed è al quarto posto. E allora 8.34 minuti, è la par condicio, bellezza, una settimana senza i talk show della RAI, anno zero, Porta a Porta, Ballarò, In mezz'ora di Lucia Annunziata, poi c'è quello di Paragone di cui mi scuso non ricordo il titolo, Ultima Parola mi suggerisce Sara Spreafico, insomma vi sono mancati, di questo oggi parliamo nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ecco, ultima parola. Allora, vi sono mancate sì o no? Votate su radio24.it. Per ora vi state dividendo incredibilmente, il 50% dicono, dice, di voi ci sono mancati, il 50% no. Intanto io saluto due colleghi con cui parleremo: Alessandro Sallusti, condirettore del giornale, ben ritrovato Sallusti, buongiorno. Buongiorno a voi. Così come saluto David Parenzo che conduce, buongiorno, ciao David, conduce Iceberg su Tele Lombardia il giovedì, ma il lunedì, cioè stasera invece, su diverse emittenti regionali, un talk show politico che io quando posso non perdo mai. Lì la par condicio, ma poi spiegheremo, non, diciamo, non vale, ecco, insomma, si può ancora assistere a qualcosa. Si può fare tutto e di più, che è quello che faremo stasera. Tutto di più, ma tra poco ci dirai. Allora, io però vorrei, con Alessandro Sallusti e David Parenze, dare buongiorno a Margherita Hack. Buongiorno, professoressa Hack. Buongiorno. Qualcuno può dire, ma cosa c'entra un'astrofisica, una professoressa, con il tema di cui stiamo parlando? Lei ha scritto a Repubblica una breve lettera dicendo: sapete che c'è? Io l'anno prossimo, quest'anno, insomma, il prossimo canone, quello della RAI, lo pagherò per 11 dodicesimi, perché mi hanno tolto un mese di queste trasmissioni. Effettivamente, io mi sono associata a un lettore che il giorno prima aveva scritto che avrebbe pagato gli 11 dodicesimi del canone, visto che era stato defraudato per un mese di alcune trasmissioni, e io mi sono associata a lui e ho invitato tutti a fare lo stesso. Cioè, lei si sente defraudata? Beh, io soprattutto guardavo Ballarò e Anno Zero, e il fatto che l'abbiano tolto per un mese mi ha defraudato del mio diritto, perché io ho pagato il canone per 12 mesi. Quindi l'anno prossimo pagherò, mi riprenderò un mese. Senta, ma al di là della mossa, come di questa sua protesta, come vogliamo definirla? Protesta neanche fiscale, no? Perché lei dice io non... No, fiscale no, perché... di un diritto di un cittadino che ha pagato e che paga sempre il canone per 12 mesi e quindi vuole usufruire delle trasmissioni che lo interessano per 12 mesi. Non le è piaciuto comunque? Come la definisce questa? Come la definirebbe secondo lei questa mancanza per un mese? È la legge. Arroganza. Per voler tenere la gente all'oscuro delle varie opinioni, di liberi dibattiti, perché poi sia a Ballarò che a Anno Zero si sentivano le voci di tutte le opinioni, le opinioni, tutti i partiti. Però è la legge, no? È la par condicio, è questa. La legge della par condicio è giusto che tutti abbiano diritto a parlare. Perciò par condicio. Infatti era così, cioè o tutti o nessuno, il che vuol dire un disastro in Italia, perché come si fa? Sì, perché nessuno no, perché un compito della RAI, della televisione, è di informare i cittadini. Quindi è un servizio pubblico e qui non si può togliere un servizio pubblico. Si deve chiedere che questo servizio pubblico dia uguali informazioni, uguale accesso a tutte le voci. Vabbè, io non so quanto potrà avere proseliti, però lei ha lanciato, o meglio si è associata, ha invitato tutti coloro che credono come lei si sono sentiti defraudati a dire: pagate un mese in meno il canone. Vedremo insomma se questo porterà, intanto rimanga con noi professoressa, vedremo se questo raccoglierà proseliti. Voglio chiedere direttamente ad Alessandro Sallusti se sono mancati questi talk show in questa settimana. No, questi talk show non mi sono mancati, per prima cosa. Per seconda cosa, se la RAI fosse un supermercato dove uno compra quello che vuole, legittimamente Margherita Hack pagherebbe di meno, vuol pagare di meno perché non c'è Ballarò. Credo che tantissimi italiani pagherebbero di meno perché c'è Ballarò e Anno Zero e ci sono trasmissioni molto faziose. Però c'è un equivoco di fondo e spiego anche perché non mi sono mancate, perché non è perché sono un censore. E forse c'è, io non so se è ignoranza o malafede, ma a sentire per esempio Margherita Hack, ma tantissime persone, sembra che abbiano chiuso Ballarò ed Anno Zero. In realtà non solo non li hanno chiusi, sospesi. Ma non solo li hanno tecnicamente sospesi, ma per una legge voluta dalla sinistra, chiesta con forza dalla sinistra, Ballarò e Anno Zero, così come le intendiamo noi in questo momento, Santoro che fa i suoi show De Floris che interroga i suoi ospiti, non potevano andare in onda per una legge voluta dalla sinistra. Il Ballarò e Anno Zero che avrebbero potuto andare in onda sarebbero state delle trasmissioni dove tutti i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni avevano il diritto dovere di partecipare, e per cui ci sarebbero stati 15, 20, immaginate, Anno Zero, con non con Travaglio e tutto il, no, ma con 15 rappresentanti di lista sostanzialmente, sì, a rispondere alla stessa domanda che Santoro aveva l'obbligo. Infatti questo sarebbe stata la follia, cioè con queste regole, con queste regole è normale che non vada in onda. Quel Ballarò e quell'Anno Zero sicuramente non mi sarebbero mancati, preferirei non vederli. Ma e qui l'ipocrisia, sembra che abbiano, che non vada in onda il Ballarò e l'Anno Zero come li conosciamo, ma non possono andare in onda quelli per una legge voluta dalla sinistra, c'è la legge sulla parte. Però qualcuno sa, lui si può dire qual è l'origine di questa legge, ma insomma poi entra il fatto che insomma il Presidente del Consiglio è anche ovviamente importanti i mezzi televisivi e i mezzi di informazione, ma poi ma c'è la par condicio e quindi non entriamo in questo campo per l'appunto. Vorrei anche sentire David Parenzo. Allora, David Parenzo, in teoria tu dovresti dire no, a me non sono mancati perché è tutto gran successo per io altri. Io esulto. Esulti, no? Io perché in questo momento salto sulla sedia perché dico, per un mese sono il sovrano assoluto nella televisione locale dell'informazione. Cioè voi avete, non so, invitato Formigoni in esclusiva che parlava in piena bagarre. Sì, c'ho anche Sallusti che viene, quindi discuteremo proprio di questo. E chi, non so, questa sera avrete politici per esempio? Assolutamente sì, l'onorevole Santanché, Fabio Mussi, avremo l'onorevole Cappato, cioè beati, non ci facciamo mancare beati nulla. Beati voi, insomma. E perché, voglio dire, che ne pensi di questo? Se venissero anche a voi a dire no, adesso anche voi dovete fermarvi. Ma non possono, perché il Presidente del Consiglio, pure chiamiamolo Mister X, così non violiamo la par condicio, si Mister può dire Ber può essere Berlusconi o Bersani, quindi ecco, Ber ha già detto che tra l'altro andrà in tutte le televisioni locali a informare su quello che ha fatto il governo, ma il problema è un altro. Sallusti forse non lo ha ricordato, la par condicio è in vigore tutto l'anno, cioè io tutto l'anno devo rispettare la par condicio, nel senso che devo rispettare un giusto equilibrio di presenze di centrodestra, centrosinistra, centrosud e centronord, diciamo, all'interno della mia trasmissione. Cioè non è che posso fare i monologhi, però nel corso delle mie puntate devo rispettare questa par condicio che in periodo non elettorale è più blanda. Quando arrivano le elezioni, non è che tu devi invitare, se fai un programma di informazione, ecco l'equivoco nel quale secondo me è caduto anche il condirettore del giornale Sallusti, non è che tu devi invitare il leader di quel partitucolo dello 0,5, dello 0,1, 0,3%, non sarebbe stato questo il caso né di Ballarò né di Anno Zero né tantomeno il mio, nel senso che io non faccio trasmissioni elettorali, io faccio trasmissioni di informazione, quindi sono tenuto a rispettare la par condicio, ma non è che devo invitare la qualunque, perché io devo stare sull'attualità politica, quindi non è che faccio trasmissioni elettorali, cioè in funzione dell'appuntamento delle regionali, racconto l'attualità politica. E come faccio a raccontare l'attualità politica se non con i protagonisti? Certo, nella mia trasmissione anche di questa sera non devo fare nessun riferimento, nessun appello al voto. Beh certo, quindi, questo sì, ci mancherebbe. Però la gabola sta proprio qui, cioè non è che Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta e quant'altro sarebbero sottoposti a un regime diverso, avrebbero dovuto, come dire, tenere in considerazione la par condicio, cioè una giusta presenza di tutti. Beh, in questo caso però la commissione vigilanza RAI è stata un po' più stringente. In ogni caso, io prima di andare al traffico vorrei tornare per un attimo alla professoressa Margherita, che ha sentito Sallusti del giornale, il giornale dice l'ha voluta la sinistra. Allora la prima cosa da fare veramente per rispettare lo spirito della par condicio era di fare la legge sul conflitto di interessi, perché è una vergogna, succede solo in Italia, che il Premier abbia tutta l'informazione in mano, sia quella sua personale, sia metta pesantemente lo zampino su quella pubblica. È tutto, insomma, lei mi fa entrare in argomenti spinosi, c'è la par condicio, spinosi, professoressa! Però è una vergogna, è solo l'Italia, fra i paesi sviluppati, a detiene sto primato. Va bene, il traffico, poi rientriamo con Sallusti, con Margherita Hack, David Parenzo, sentiamo anche qualche ascoltatore che ci sta chiamando. Allora, vi sono mancati, vi mancano questi talk show, vi manca Bruno Vespa, vi manca Anno Zero, vi manca Santoro. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, vi mancano i talk show della Rai? 800 24 00 24 per intervenire. Vediamo. Ah, diverse donne. Bene, auguri a tutti. L'8 marzo. Tina da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Dico che sono contentissima. Che non ci siano? No, perché ne siamo stufi tutti i giorni. La faccia di Sallustri a tutte le trasmissioni lui. E poi devo dire... Mi perdoni. Che c'entra però Sallusti in questo caso? Sallusti la pensa come, no, la pensa come lei, però. Una cosa, se me la lo dica. Permettete. Certo, la a dica. Sallustri. Sallustri da sempre a me non mi interessa, destro, sinistro, 80 anni ho fatto i miei giorni. E non mi interessa, da sempre colpa la sinistra, pure adesso che hanno tolto la sinistra, anzi... Ricordo, signor Sallustri, Rai 3, la notte, a mezzanotte, disse che il capo dello Stato era un assassino perché i comunisti uccidevano. E allora, caro Sallustri, la rispetto come giornalista, ma come uomo no, no perché beh, non si dicono queste cose. Ora il capo dello Stato... è un dio, per me è sempre stato un dio, qualunque sia stato. Va bene, Tina, adesso, adesso Sallusti, vabbè, non so se vuole Sallusti, vuoi... No, no, io che sono liberale, come dire, trovo legittimo il parere dell'ascoltatrice, nel senso che ognuno la pensa come vuole. Io non dissi che il capo dello Stato era un assassino, ma ricordo alla signora allora che siccome il capo dello Stato dice un dio a prescindere, bisognerebbe ricordare in queste ore di Pietro Bersani che è un dio anche quando decide che una legge è legittima e costituzionale, e mi riferisco a quella sul di più a Di Pietro che ce l'ha più che certo Di Pietro volevo dire ma più in generale è vero quello che dice Margherita Hack che questo paese dovrebbe affrontare il problema del conflitto di interessi, anche la sinistra ha avuto modo di affrontarlo e non l'ha fatto, e che quello è un problema che va affrontato. Ma il paradosso italiano, perché l'Italia è paradossale in sé, è che nonostante esista questo conflitto di interesse a livello teorico, poi in pratica la stragrande maggioranza dei quotidiani e la stragrande maggioranza delle trasmissioni televisive, comprese quelle della Rai comprese quelle di Mediaset, oltre quelle della Rai, non sono certo amiche o favorevoli a questo governo. E, come dire, siccome il governo è riuscito a come dire, consigliare, diciamo così, e il fatto che al direttore del TG1 ci sia una persona non ostile, immediatamente il non essere ostile a questo governo diventa essere faziosi. Io non ho capito perché non essere ostile a questo governo è essere faziosi, essere ostile è essere liberi. Insomma, c'è un'ipocrisia di fondo. Sentiamo Sara da Bologna, che ne pensa? Sara? Pronto? Non... Eccoci, siamo qui a Bologna. No, ma io poi mi chiamo Luciana, ma va bene. Ah, va benissimo, Luciana da Bologna. Sì, quindi volevo dire che sono d'accordo con la dottoressa Margherita Hack, perché in effetti io seguo poco queste trasmissioni, ma le seguo un pochino leggermente proprio per rendermi conto delle cose. Vedo che anche se possono essere considerate faziose, sono rappresentanti più partiti, diciamo. Per cui noi adesso chiudiamo queste trasmissioni che possono essere di interesse di tante altre persone, ma noi dobbiamo considerare che ci sono le tre televisioni private che però par condicio non ne fanno, perché anche se non sono esplicite, loro sono sempre dalla parte del Mr. B, diciamo. Perché Mediaset vale la par condicio anche lì, per tutti. Sì, vale, però la par condicio. Si conosce poco, capito? È tutto sott'acqua. Loro hanno un modo di fare che cioè non è che danno voce alla minoranza. Quindi, per dire, che fanno? Mandano i messaggi subliminali? No, non lo so. Sì, cioè io non non condivido questo modo di... Vabbè, lei non piace... È un tappare non piace. La bocca. È un tappare la bocca. No, vabbè, insomma, lei dice un tappare la bocca. Voglio tornare per un attimo a David Parenzo. David, eccoci qua. Allora... Sì, no, per dire semplicemente questo, che il cittadino, quando si siede sulla sua comoda poltrona con un bicchiere di whisky in mano, ha un telecomando che è il massimo della democrazia, quindi sceglie quale canale guardare. Se poi è vero che i talk show non spostano voti, nel senso che Berlusconi vive... e viene eletto Mister X, pardon, Ber. Vince Ber, perde le elezioni con le televisioni, Prodi però vince le elezioni senza le televisioni. Prodi non è candidato, quindi Prodi, sì. Quindi Prodi e Ber vincono e perdono le elezioni in questi 15 anni con il sistema delle televisioni che noi conosciamo, quindi il cosiddetto duopolio, dove da una parte sono le televisioni di Ber e dall'altra quelle dello Stato. Quindi se è vero l'assunto che le televisioni più di tanto non spostano il consenso, perché la gente vota anche a prescindere da quello che avviene in queste nostre bellissime arene televisive, perché mettere un bavaglio così forte, visto che c'è un telecomando? Spostano molto in pubblicità, la Rai ha perso una vagonata di milioni, voi David avete guadagnato in pubblicità almeno così? Beh, la crisi c'è per tutti, dopodiché grazie a queste elezioni, grazie al fatto che per un mese abbiamo una splendida autostrada libera e quindi l'informazione... la potremo fare noi, immagino che invece questi mesi serviranno per fare una bella cassa. Io devo semplicemente ricordare che la par condicio è stata inventata dal signor Vincenzo Vita, quindi dal centro-sinistra, su cui ha perfettamente ragione Sallusti. E dopodiché purtroppo il diavolo si annida nei cavilli, i radicali ogni anno presentano quello stesso emendamento, quest'anno i deputati di Ber hanno annusato l'affare. Alla prima lettura non lo avevano capito, evidentemente erano distratti, alla seconda lo hanno capito bene e ne hanno capito l'effetto e l'hanno votato. Ma tutti gli anni i radicali presentano lo stesso medesimo emendamento. Sentiamo Francesco da Treviso, che ne pensa? Buongiorno. Che dice buongiorno Francesco? Allora io dico che personalmente queste trasmissioni a me non mancano assolutamente, sono spazzatura. Ecco la cosa che come cittadino mi sento di... Sì, spazzatura assolutamente, nel senso che come cittadino... specialmente quelle di sinistra soprattutto hanno zero, nel senso che io come cittadino, come una persona qualsiasi che paga le tasse, non mi sento assolutamente rappresentato poi da questo sistema dell'informazione che è espressione tutta della sinistra, della quale che io rispetto, ma che però spara a zero in continuamente sul nostro Ber. Per cui quindi, non vedo una par condicio, quindi lei, prima non c'era, quindi lei dice è giusto togliere in campagna elettorale, tappare la bocca perché sono spazzatura. Per carità, no io non sono per tappare la bocca a nessuno, per me potevano anche, ha ragione il signore che parlava prima, che sono assolutamente ininfluenti a livello del voto, però non sono assolutamente rappresentative in ugual modo di tutta la parte. Se non sono influenti, perché toglierle? Appunto, perché toglierle? Per me, a me non mancano, possono anche lasciare. Ah, vabbè, dice a me non mancano. Per... è che il sistema comunque è imparziale, ma non è come dice la dottoressa Hack, a mio parere, vabbè, che è imparziale perché c'è Ber che ha il conflitto di interessi, che le decisioni sono sue. Anche lei ha sdoganato Ber. Grazie Francesco, con lei devo concludere. Voglio ringraziare Margherita Hack, Alessandro Sallusti, David Parenzo, oggi alle 8.30, 20.30 Iceberg, su Tele Lombardia e altre TV. Io cito Tele Lombardia perché sono qui nella Lombardia. Grazie a tutti voi. Allora do la linea a Oscar Giannino, nel ringraziare anche Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia. Continuate a votare, vi mancano tutti questi talk show. Radio24.it, e noi ci sentiamo domattina.